peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Veroni da Salpinaz. L'Europa ormai da tempo si è affrancata da una sudditanza nei confronti del jazz proveniente dagli Stati Uniti. E praticamente dalla fine degli anni 60, più o meno, ha smesso di essere una sorta di copia, di inseguire la cultura americana come unico riferimento per l'espressione jazzistica, e poi se ne è appropriato anche con alcuni risultati di grande livello. Sono diversi musicisti che hanno dato prova di avere un'autonomia e una qualità anche, come dire, di immaginazione musicale che si integra con culture della propria appartenenza territoriale, e mantenendo appunto questo linguaggio che difficilmente si riesce a definire, ma che però può essere scritto all'infinità dei linguaggi del jazz. Ma è come adesso, peraltro, si può dire che i linguaggi del jazz sono veramente un'infinità. Appunto, oggi ascoltiamo alcuni di questi esempi, un paio sono decisamente ben poco conosciuti da noi, uno perché il primo che ascolteremo è un trombonista svizzero che ha già ormai una fascia di età verso i 60, diciamo, ha una lunga esperienza alle spalle e con una permanenza anche negli Stati Uniti diversi anni, poi è tornato in Europa e la sua attività primaria si sviluppa in Germania. È un musicista che si inserisce nei linguaggi della musica americana. Peraltro lui ha fatto parte della Mingus Dynasty per un certo tempo, insomma, quindi fa parte di questa larga schiera di musicisti di mainstream che l'America ha a suo attivo. Però appunto come leader ha prodotto diverse cose ormai da tempo, sono già una quindicina d'anni che propone progetti anche a suo nome, l'ultimo dei quali direi che ha un certo interesse. Si chiama Monsoon Christoph Schweitzer e il lavoro uscito recentemente è intitolato Opus. È un progetto questo di Schweitzer che vede una formazione anche costante, insomma è un quintetto che ha già fatto diversi lavori, un quintetto misto che si compone sia di musicisti americani che di musicisti europei. Direi che il musicista di spicco, peraltro non da poco, è Dave Binney, senz'altro dà anche in questo caso prova di qualità solistiche eccellenti e poi anche una capacità di integrarsi in questo linguaggio particolare. Infatti le composizioni di Schweitzer sono tutte firmate da lui. Hanno una caratteristica abbastanza particolare, pur definendosi, potendole definire, diciamo, in una certa schiera di mainstream, la struttura del brano si articola in più movimenti come una sorta di suite, ed è questa una delle caratteristiche che non solo Schweitzer comincia ad avere come nella sua struttura delle composizioni. Comunque ascoltiamo il brano d'apertura, sono le composizioni presenti in questo lavoro, sono 7, e sono quasi tutte piuttosto lunghe e anche, come dire, articolate in movimenti diversi, in momenti diversi. Il silenzio è una delle componenti essenziali poi di queste strutture. Thank you. Questo era il brano d'apertura del lavoro di Schweitzer, di Monsun Christoph Schweitzer, trombonista svizzero, il disco intitolato Opus, uscito poco tempo fa. E i musicisti, oltre a Schweitzer al trombone, Dave Binney al sax contralto, Jacob Sachs al pianoforte, che è indubbiamente una personalità interessante, piuttosto presente in questo quintetto, ha un'incidenza piuttosto forte. Poi Zach Lober al contrabbasso e Dan Weiss alla batteria. Anche la batteria svolge un ruolo di tessuto piuttosto importante nella scrittura di questi arrangiamenti. Il prossimo lavoro, sempre rimanendo naturalmente in Europa, vede dei punti di contatto con questa sorta di reinvenzione di stili diversi da quelli prettamente americani. Questo è un gruppo di giovani inglesi, un gruppo nuovo, è un'opera prima, e devo dire che sarà anche il disco di punta di oggi, perché è stata una sorpresa decisamente molto interessante. Un gruppo chiamato Gannets, sono quindi piuttosto giovani, ed è un gruppo guidato da un pianista, Fife Dangerfield, vede anche la presenza di Alex Ward al clarinetto, Chris Candy al clarinetto basso e anche all'elettronica, Dominique Lash al contrabbasso e Steve Noble alla batteria e percussioni. Quindi anche la timbrica è piuttosto particolare, c'è una presenza di clarinetti, quindi anche del suono del clarinetto molto forte, e ha un tessuto narrativo complesso e articolato, molto frammentato, recupera linguaggi molto diversi tra di loro, che vengono dall'esperienza della musica contemporanea, dal jazz, dal rock, vengono in mente Frank Zappa, San Ra, sono molte le suggestioni che percorrono anche la storia del jazz. Ascoltiamo due brani perché ne vale la pena, sono tutti composizioni articolate, piuttosto lunghe spesso, che appunto danno una scrittura complessa che ha anche la qualità che più la si ascolta più cresce anche nella sostanza, diciamo, nella sostanza musicale. Ascoltiamo il brano d'apertura, Walking the Gannet. Thank you. Thank you. Ecco, questo era il gruppo di formazione inglese dei Gamets, è indubbiamente abbastanza rappresentativo anche, si inseguono degli stili diversi, delle situazioni diverse, il sound che appare in diverse occasioni vede far riferimento non soltanto a quello che è l'esperienza del free e anche di un certo tipo di rock d'avanguardia, ma ad esempio nel drumming del batterista emerge come una sorta di recupero anche delle sonorità di Ambenic, quindi questo suono giocato sui due quarti, sull'uso anche dei piatti piccoli, questi suoni secchi sui piatti. Il batterista si chiama Steve Noble, anche questo piuttosto giovane, e i due clarinetti molto interessanti, Alex Ward al clarinetto e Chris Candy al clarinetto basso. Naturalmente l'elettronica, la tessitura anche rumoristica che viene permessa appunto dall'utilizzo ampio e intelligente dell'elettronica, dà poi una tessitura particolare. Ascoltiamo anche un altro brano, proprio perché vale la pena di, come dire, di lasciarsi permeare da una tessitura strana di questi brani, di queste situazioni che si susseguono e che danno un senso di caos, che però alla fine si riesce a collocare in una narrazione, narrazione particolare e direi piuttosto nuova come stile. We'll be right back.

Questo era il gruppo Gannets, un gruppo inglese di giovani inglesi guidato da Pfeiffer Dangerfield, pianista, tastierista, come dire, coordinatore dei suoni, un quintetto notevole con musicisti bravi e con una musica intelligente, nuova e che riesce a dare delle emozioni diverse, diciamo, a far assaporare anche una, come dire, una personalità diversa da quella tradizionale del jazz, pur essendo perfettamente inserite in quello che può essere una tradizione jazzistica, anche il linguaggio che abbiamo ascoltato, però aggiunge qualcosa di nuovo e di personale. Passando all'ultimo disco di oggi, si può decisamente definire come qualcosa, come uno stile che ha preso le proprie radici all'interno del territorio francese, insomma, in Europa. Si tratta del, diciamo, ne è protagonista quantomeno insieme ad altri, ma comunque Louis Clavis. Il disco è un progetto guidato probabilmente da Aldo Romano, dal batterista Aldo Romano, col quale Clavis ha lavorato per molto tempo e in molte occasioni col quale continua a collaborare. È un progetto, è un doppio trio che vede un incontro, un trio di Clavis, Texier e Romano, quindi un gruppo ben consolidato, con un altro trio di diciamo, ospiti di riguardo e con i quali hanno in diverse occasioni collaborato più volte. Si tratta di Enrico Rava alla tromba, Guyen Le alla chitarra e Borjan Zeta alle tastiere. Quindi una formazione abbastanza, come dire, una situazione di session, però con 11 brani, tutti composti da questi musicisti. Soprattutto, diciamo, sono brani scritti da Aldo Romano, da Texier, da Clavis, poi in alcuni casi anche dagli altri musicisti. Però il risultato, questo è un disco uscito di recente, comunque, diciamo, registrato non tanto tempo fa per l'etichetta Label Bleu, ripercorre e conferma quello che è stato appunto uno stile che ha preso la propria strada nella scuola di Lione con Clavis, quindi questo linguaggio quantomeno che cerca dei punti di contatto con le musiche popolari, con la tradizione popolare. Quindi una tradizione popolare che può essere considerata in modo trasversale per tutta l'area mediterranea e comunque anche europea, tout court. Ascoltiamo i primi due brani da questo buon disco, che non aggiunge nulla di nuovo, però aggiunge chiaramente le qualità dei musicisti a livello individuale che si esprimono sempre all'altezza della propria considerazione, della propria fama. Il primo brano è una composizione di Clavis e il secondo è una composizione di Enrico Rava. Ascoltiamoli. Thank you. Questo era il doppio trio guidato o comunque immaginato da Aldo Romano, con una formazione interessante che vede musicisti sia che collaborano da lungo tempo, sia anche che si incontrano con affinità stilistiche e di interesse musicale comuni. Per ricordarli, tanto abbiamo ascoltato nell'ultimo brano questo dialogo teso proprio sul drumming di Aldo Romano, il dialogo teso tra Sclavissa al clarinetto basso e Ricorava alla tromba. Poi si aggiungono Eric Texier al contrabbasso, Guyen Le alla chitarra, Bojan Zeta alle tastiere, e quindi una formazione di All Stars, potrebbe definire. Un disco occasionale che sicuramente non riveste importanze progettuali particolari, però indubbiamente propone una musica di alto livello suonata da musicisti di alto livello, appunto. Questo era l'ultimo brano per oggi. Vi ricordo che tutte le informazioni relative ai dischi ascoltati e anche la registrazione della trasmissione le potete trovare sul nostro sito radiocittafugico.it nella sezione musica. Questo è tutto, salve a tutti, alla prossima. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.